Effetto Mondo. Eccoci qua con Giulia Crivelli. Ciao Giulia, buongiorno. Buongiorno. Sta per cadere il telefono giù sotto. Allora Giulia, oggi dove ci porti nella tua lettura dei giornali internazionali? Magari cominciamo dalla Germania, perché questa crisi tra Turchia e Grecia, che naturalmente coinvolge la Russia in quanto terzo incomodo, e poi naturalmente l'Europa, in Germania fa molto effetto. Ieri sono andati, ed è su tutti i giornali, dalla Süddeutsche Zeitung alla Welt, alla Frankfurt Allgemeine, questa foto di Ursula von der Leyen, che è l'ex ministro della difesa tedesco prima di diventare presidente della commissione, nonché del partito di Angela Merkel, della CDU, ha fatto ha fatto il giro del mondo, appunto questa foto dove lei guarda fuori da questo oblò di questo aereo con il quale hanno sorvolato il confine tra Turchia e Grecia. E sentiamo magari le parole di Seehofer, che è il ministro degli interni tedesco, perché in Germania la posizione estrema, potete immaginarvelo, è quella della AfD, che dice confini chiusi. Però la AfD, Alternative für Deutschland, partito di estrema destra, ha pochi parlamentari. La maggior parte dei parlamentari della grosse coalizione, dai Verdi alla Linke, alla CDU, con alcuni distinguo alla SPD, chiedono un piano di emergenza, comunque, perché la Germania inizi comunque ad accogliere le persone più deboli. Sentiamo Seehofer. Wenn wir hier eine geordnete Lösung nicht hinbekommen, werden wir die Unordnung bekommen, den Kontrollverlust bekommen. E qui Seehofer dice: se non ci sbrighiamo come Europa, sicuramente torneremo a una situazione completamente fuori controllo. E più tardi, e questo è il titolo principale della Süddeutsche Zeitung, lo stesso Seehofer ha detto: noi avevamo già un piano per accogliere 5.000 rifugiati siriani, che in questo momento, appunto, sappiamo stanno arrivando dalla Grecia, stanno arrivando dalla Turchia e vorrebbero attraversare la Grecia, greci permettendo. E tra questi 5.000 soprattutto bambini, donne, anziani, persone insomma particolarmente deboli. Ci sono tantissimi reportage da questi campi profughi improvvisati, queste piccole tendopoli, e naturalmente fanno impressione le temperature, fanno impressione la mancanza di cibo, la mancanza d'acqua, e insomma i giornali tedeschi sono pieni di questi reportage e appunto delle prime mosse politiche della politica tedesca, ancora prima che si muova quella europea. Senti Giulia, che cosa invece scrivono i giornali? Ne abbiamo parlato già prima delle primarie democratiche. Dem è un evento molto atteso, il Super Tuesday. Sì, tra l'altro ieri uno degli stati in cui si votava era il Tennessee, dove c'è stato un tornado, e sono almeno 25 i morti, ma le persone sono andate a votare lo stesso. Il dato che fa molta impressione, che riportano quasi tutti, è l'affluenza. Pensate che in alcuni polling station, alcuni di questi posti dove si poteva votare in Texas, le persone hanno aspettato 6 ore per votare in coda. Questo per dire che evidentemente c'è una grande voglia di partecipare. L'altro tema, oltre naturalmente, come abbiamo detto, come abbiamo sentito, questa vittoria, questo ritorno a sorpresa di Joe Biden, che a vederlo nei video, magari dopo sentiamo un suo audio, ma sembra davvero più giovane di 20 anni, era talmente felice. Ma l'effetto della nomination quasi o così proprio? Ma guarda, io credo che veramente da Sleepy Joe, che è il dormiglione, l'addormentato, il bello addormentato, come lo chiama Donald Trump, è sembrato molto ringalluzzito. Il tema qui naturalmente è, da una parte, il famoso endorsement, quando verrà, di Barack Obama, l'eventuale ticket, perché se Joe Biden, Bernie Sanders, meno probabilmente Bloomberg, dovranno presentarsi con un vice. E qui c'è il grande tema: forse sarebbe il caso di scegliere una delle due candidate donne. Con Joe Biden starebbe meglio Amy Klobuchar, scrive per esempio il Washington Post, che non Elizabeth Warren. Insomma, vedremo, questo è l'altro grande tema. E poi c'è, perché il coronavirus continua a mietere vittime anche negli Stati Uniti, aumentano i contagiati, eventualmente tutte le convention che si svolgono a porte chiuse con migliaia e migliaia di persone, sicuramente non a un metro di distanza. Questo è un po' il punto interrogativo, ma come ha detto giustamente il sottosegretario alla salute, qui è questione di aggiornarsi ora per ora, minuto per minuto. Sì, beh, poi la situazione in Italia è un po' più avanti che non negli Stati Uniti, dove i casi credo che siano alcune poche centinaia. In un paese molto più grande del nostro credo che sia, diciamo, appunto in ritardo, speriamo per loro di no, che non sia un ritardo, ma che non ci sia proprio però di qualche giorno. Vogliamo sentire anche Biden? Sì, dai, sentiamo Biden. It's still early, but things are looking awful, awful good. Qui era così, quando ancora c'erano i conteggi imparziali, sì. Diceva it's looking awfully, awfully good. E insomma, la situazione è terribilmente bella, letteralmente, perché awful è proprio terribilmente bella. Perciò era galvanizzato. A proposito, sì, di coronavirus, però, se vuoi, anche nel Regno Unito ci si muove, esattamente come è stato fatto qua. Il Sistema Sanitario Nazionale ha pubblicato delle linee guida. La regina continua, guardate che è fantastica, ultra novantenne, lei va in giro con consegnare le sue medaglie, però hanno notato tutti i giornali con dei guanti un po' speciali. Non i soliti guanti, diciamo, stilosi, ma quelli in lattice. Cosa e il titolo di Metro è Crownavirus, naturalmente sì. Crown in inglese vuol dire corona, quindi insomma, questo gioco di parole. Loro fanno il confronto tra un'onorificenza consegnata qualche mese fa a mani nude e quella invece ieri con i guanti. Vabbè, un po' di precauzioni se le prende anche lei, anche perché lei, volendo, mamma mia, veramente, non volendo, rientra tra le persone a rischio. Dovrebbe stare chiusa Buckingham Palace. E per quanto riguarda invece la questione delle misure di restrizione, nel Regno Unito il telelavoro è molto più diffuso che da noi, però comunque non alle percentuali che potrebbe essere necessario attuare, perché questa è la previsione che fanno tutti i giornali, da Daily Telegraph al Guardian al Times: il 20% di tutta la forza lavoro potrebbe ammalarsi più che aver bisogno di telelavoro, e quindi a quel punto vedremo, perché insomma non basta stare a casa per lavorare, magari se si ha la febbre altissima non è così semplice. Quotidiani spagnoli o francesi, dove ci porti? Se vuoi francesi, perché è divertente, perché c'è la vignetta di Plantu su Le Monde, che è con un medico che misura la febbre al paziente, che è 49,3. Perché 49,3? Perché il famoso articolo della Costituzione, articolo 49,3, che permetterebbe al presidente di far passare una legge anche senza l'ok del Parlamento. Di che cosa parliamo? Lo potete immaginare, della riforma sulle pensioni, perché l'emergenza coronavirus ancora, c'è anche con lì. Questa storia non ce la fanno. Forse approfitta di questo, sì, dicono i commentatori, insomma, un po' più critici verso Macron, approfittare di questo. Quindi, momento. Cioè, adesso la riforma non è ancora passata. No, è sempre lì in riforma. Parlamento, ma siccome c'è questo stallo, c'è questo spettro del 49,3. Cioè di una forzatura da parte di Macron, che potrebbe. E invece in Spagna? No, in Spagna invece c'è il primo caso a Valencia, quindi anche lì, e poi naturalmente la questione delle partite di calcio. Per esempio la partita con l'Inter, Getafe-Inter. Sì, Getafe credo che sia. E Valencia-Atalanta potrebbero essere giocate a porte chiuse, così dice il Mondo. Che invece il País ha una lunga intervista a Matteo Salvini, secondo me fatta qualche giorno fa, perché dice: voglio un'Europa delle patrie, dei popoli, quando poi oggi sappiamo che tutti chiedono, anche Salvini, e si chiede dov'è l'Europa. Ecco, appunto, l'Europa non può essere l'Europa dei popoli dei partiti singoli, ma deve parlare con una sola voce, quindi è un po' contraddittorio, insomma, questo atteggiamento. Va bene, grazie Giulia, è tutto anche per oggi, per questa pagina. Ci fermiamo qua con Effetto Giorno, ci risentiamo naturalmente domani. Paolo Corleone in regia, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizio, l'auguro di una buona giornata. Ciao.